Mix 24 di Giovanni Minoli. Napoli, De Magistris ha sicuramente vinto al primo turno. Milano, ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Sala e quello del centro-destra Parisi. A Roma, un rush finale che probabilmente vedrà stavolta anche spendersi in prima persona Beppe Grillo. Noi siamo arrivati ai quarti, questo è un dato oggettivo. Potrebbe essere comodo dire colpa dell'abbraccio mortale di Berlusconi, ma io non credo. Potrei diventare il primo sindaco donna di Roma. Il vento sta cambiando, signori, il vento sta cambiando. Ecco, allora il vento sta cambiando. Mario Pietrangelo, la prima cosa vorrei chiedervi è se siete sorpresi da questi risultati e quale di questi risultati vi sorprende di più? Nessuna sorpresa tranne una, il testa a testa molto serrato che si è realizzato poi nella nottata a Milano tra Sala e Parisi. Quello è un ballottaggio chiave per leggere poi questa tornata elettorale amministrativa, cioè quella solo di quella amministrativa, eh? Quel no, ballottaggio lì è quel ballottaggio che ha più lì valenza politica, sì, nazionale. Beh, certo, sicuramente Milano è stata sede dell'Expo, un sindaco di sinistra, ovviamente per il governo Renzi è importante quel test. Poi è certo, vero per Renzi la rinuncia di Pisapia forse con gli occhi del poi, col senno del poi, è stata pesante, perché sì, c'è una continuità ma non c'è l'uomo che ha realizzato, no, le cose di prima, insomma. No, il ballottaggio ovviamente è aperto, però bisogna dire la verità, Sala non è percepito pienamente come un uomo di sinistra. È vero che poi ci sono fasi storiche in cui bisogna cambiare, però ha fatto insomma, city manager della Moratti, sì, sai, questa è la storia. C'è anche un altro dato che non bisogna sottovalutare, il fatto che dove il centrodestra, pur in condizioni molto difficili dal punto di vista di coalizione, diciamo, eccetera, però dove si presenta unito è molto competitivo. Tu Pietrangelo che dici? Cos'è che ti ha sorpreso di più di questo? Intanto volevo leggervi che è stato trovato stamattina nella statua di Pasquino a Roma questo verso: Roma di travertino rifatta da Pignatone saluta Grillo erguito suo prossimo padrone. Quindi la voce del popolo già si è fatta sentire. Cosa ne penso? Penso che allora Milano spiega qualcosa che poi a Roma ha trovato la conferma: una legnatona per Matteo Renzi, per la sua narrazione, per la sua sicumera, per l'arroganza con cui ha voluto imbastire in questa campagna elettorale quella che doveva essere una sua prima proclamazione, che nel corso d'opera invece ha voluto rimandare al referendum. Aveva imposto Sala, l'aveva imposto proprio con tutti i fiocchetti propri della sua battaglia politica ed è fallito. Ma io non credo, Mario, perché lì il centrodestra si è unito, ma perché io credo che il merito sia tutto del candidato Parisi, non del cosiddetto centrodestra. Beh, sai, certo, cioè, hanno fatto la campagna Parisi, elettorale. Parisi è riuscito a essere oltre il centrodestra, no, ma certo, insomma, è lui. È riuscito ad essere se stesso, un po' come è venuta meno invece l'operazione su Roma, dove il centrodestra, sfasciandosi invece, non ha prodotto altri risultati, anche perché, dobbiamo dire una cosa, i grandi numeri che accompagnano il successo di Virginia Raggi non sono grandi numeri della sinistra o della destra, sono grandi numeri trasversali, grandi numeri che non riconoscono più le barriere o le separazioni stabilite dai vecchi schieramenti, dai vecchi partiti. La gente è scappata all'idea di votare Giachetti perché vedeva le facce di un partito, qual è il Partito Democratico, che a sua volta in una Roma è quella storia lì. Non esistono più queste logiche. No, io invece il dato che mi ha colpito più di tutti è stato il dato dell'Appennino Torino, perché l'Appennino a Torino al 30% vuol dire che anche a Torino la partita è aperta. Contro chi? Contro il simbolo di tutto quello che è il passato, perché Fassino, giusto, è stato sindaco, che è stato segretario del partito, che è stato tutto, è stato ministro, eccetera, in realtà non vince, e se la deve vedere, forse fa il pieno dei voti che poteva fare. Non credo che Airaudo lo voterà, e quindi penso che il risultato di Torino dell'Appennino è un risultato molto interessante, e più in generale è come se ci fosse una voglia di donne al governo, in qualche modo, una voglia di donne al governo, perché questo è un dato interessante, cioè, sì, sono anche io lo mi sembra che quasi forse di premier anche, cioè diciamo, beh, se cambiamo veramente genere, vediamo il cambio totale. Se lo sente Maria Elena Boschi già comincia a farci un pensierino contro il povero Renzi. Non ce l'ha fatto, secondo te, sta lavorando per quello. Scusa, sì, Giovanni, insomma, c'è una cosa che tu dici su Torino, se posso aggiungere, che introduce un tema, cioè la capacità che ha il PD e i suoi avversari di allargare il recinto. Quello che diceva Pietrangelo sul voto che ormai è senza barriere, ed è chiarissimo, certo, che è in libera uscita ormai anche di più di quanto immaginiamo, presuppone la capacità di un partito di aprirsi. Per il Partito Democratico questo inserisce un tema vitale, cioè come riesco a catturare voti essendo chiuso alla sua sinistra. Io penso che Torino centro sarà il test più grande ancora di Milano. Torino è interessante per questo, cioè che capacità ha Fassino di allargare, e soprattutto l'Appennino, cioè da chi prende i voti. Io penso che abbia delle potenzialità in questo senso. C'è nato da tante parti. Vabbè, comunque staremo a vedere, torneremo naturalmente sul tema delle elezioni, ma intanto Blob. She can kill with a smile, she can... che la minacciava e nessuno ha fatto niente. Come al solito, cosa si aspetta? Che le donne muoiano? Aveva preparato tutto e non poteva che essere una trappola. Forse l'aveva convinta per l'ennesima volta a incontrarlo, promettendo che poi non l'avrebbe più perseguitata, e forse lei gli aveva creduto. La dinamica di questo caso segue il tragico cliché del femminicidio. Dopo molteplici episodi di molestie e stalking e relative denunce, l'ennesimo episodio di amore criminale. Ma non aveva mai denunciato l'accaduto, per timore forse, o per una forma di amore e di rispetto distorto verso il suo carnefice. Sara era stata fidanzata con Vincenzo per 2 anni, poi i due si erano lasciati. Lui non si dava pace e così sabato notte l'ha inseguita, cosparsa di benzina, le ha dato fuoco. Ma dunque quella di Sara è solo l'ultimo caso di una storia d'amore finita in tragedia, dove la gelosia è diventata ossessione prima, omicidio poi. Tra Sara e Vincenzo, però, oltre all'ossessione, c'era un altro aspetto che li legava, quello di condividere tutto, proprio tutto, sullo smartphone. Lui aveva accesso al telefono di lei, ne conosceva i movimenti, sapeva sempre dove si trovava lei, e proprio grazie a questo le ha teso un agguato. Ecco, Andrea Zapparoli Manzoni, esperto di sicurezza informatica, membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Dottor Zapparoli, nel caso dell'omicidio di Sara sembra che l'uso del telefono e in particolare dell'applicazione di localizzazione abbia permesso all'aggressore di agire con precisione. È così? È plausibile. Sembra che l'aggressore, l'ex fidanzato, avesse accesso alla geolocalizzazione della vittima. Ecco, ma com'è possibile che l'ex fidanzato avesse accesso alla geolocalizzazione di Sara? Com'è possibile tecnicamente? Ma tecnicamente in realtà di per sé è anche abbastanza semplice, se c'era stato nella creazione dell'account, no? Quindi nella definizione delle credenziali di accesso al pannello di gestione di questo telefono, che è su web, uno scambio di queste credenziali. Cioè, quindi sostanzialmente si tratta del fatto che in un primo momento forse Sara aveva condiviso con lui, insomma, o è stato lui a sottrarglielo di nascosto? Bisognava... lui ha avuto l'occasione di farlo avendo lei vicina e il suo telefono di conseguenza sotto mano. Ah, ma la... forse emergerà nel corso delle indagini il risultato netto finale, è che a quel punto non è un difetto del sistema che lui potesse seguirla, è ma normale. È una delle funzionalità rese disponibili da questi strumenti. Certo. Ma la localizzazione degli smartphone può avvenire anche senza il consenso della persona? Sfortunatamente questa materia è un pochino ambigua, è un po' scivolosa, diciamo così, perché trattandosi di funzionalità che sono proposte agli utenti finali per migliorare la loro vita e la loro esperienza nell'uso di questi oggetti, sì. Di fatto questi sistemi continuamente ti propongono le loro funzioni. Cioè uno lo può fare anche così, un po' superficialmente. Certo, ti dice, ma vuoi che io per sapere che tipo di pubblicità veicolarti in modo mirato conosca la tua posizione, così quando passeggi in una via del centro ti dico le promozioni del negozio di fronte a te? E questo di per sé sembra di fatto è un marketing mirato che potrebbe anche essere utile. Beh, nel momento in cui da qualche parte viene costantemente registrata la posizione, tra l'altro con una precisione abbastanza elevata, del telefono e quindi della persona, quasi sempre della persona, perché diciamo certo. Che ormai si tratta di una specie di protesi certo. Dell'essere umano, quindi sono sempre insieme i due elementi. E a quel punto qualsiasi uso malizioso di queste informazioni espone gli utenti a un rischio. Dottor Zapparoli, ma Sara, per proteggersi cosa avrebbe dovuto fare? Nel caso fosse stata consapevole e non avesse più voluto condividere... Allora, noi abbiamo letto che aveva cambiato alcune abitudini, aveva cambiato anche le strade che percorreva per recarsi dal nuovo fidanzato. Ma se c'era quella condivisione però questo non cambiava nulla. Probabilmente tenendo conto del fatto che se era possibile seguirla tramite il GPS, di certo. Fatto, no? E una visualizzazione dei suoi percorsi, anche cambiare percorsi non serve era a niente. Di fatto una contromisura. Certo. E quindi una volta entrati nelle reti, tra siti, social network, applicazioni, sostanzialmente siamo tracciabili e non ce ne liberiamo più. Diciamo che allora, per la loro natura e anche per la loro finalità, spesso commerciale, tutti questi servizi sono molto difficili certo. Da spegnere. Sì. Come lei ben sa, tra l'altro questi servizi per lo più sono gratuiti. Certo. È un modo per certo. Proporli e farli accettare dagli certo. Utenti finali, perché chiaramente certo. Qualche tipo di contropartita c'è, di fatto certo, le informazioni personali hanno un valore, e un grande valore, diventa un mercato, quindi noi viviamo una specie di dicotomia abbastanza certo. Di un dilemma, perché da un lato vogliamo usufruire dei vantaggi, però d'altra parte vorremmo almeno al bisogno poter disattivare e invece comunque... La disattivazione è complicata. La disattivazione normalmente è complicata, nel senso che apparentemente esistono delle interfacce piuttosto semplici dove tu puoi dire accendi o spegni il GPS, sì. Però siccome noi diamo, e tutti lo avranno notato quando installano un'applicazione sul telefono, noi diamo una serie di permessi a queste applicazioni molto ampia. Nel momento in cui usiamo un'applicazione che ha il permesso di accendere il GPS, questa applicazione accende il GPS. Certo, punto. Anche se noi l'abbiamo disattivato. Quindi insomma, diciamo che se uno sì, c'è un'ambiguità, c'è un'ambiguità vera, insomma. Diciamo che è tutto nuovo. Certo. E fino a oggi i vantaggi generalmente cioè è l'esperienza alto. Della vita che ti aiuta a capire come fare. Piano piano, esatto, purtroppo. Si ritroverà un buon senso e anche un uso ragionevole. Un equilibrio tra esigenze di privacy e comodità. E questo è il problema da avere per essere consapevoli dei rischi, insomma, cioè acquisire questa consapevolezza. Ecco, in questo senso l'uomo ha un problema, certo. Si è evoluto in una savana dove doveva fuggire dai predatori e per questo è piuttosto ben strutturato, mentre i predatori filtrati dallo schermo, dal monitor, dalla tastiera, li percepiamo molto meno. Molto meno. Quindi non scattano in noi, certo, tanto proprio da un punto di vista psicologico, quelle quei difese, meccanismi automatici di, certo, difesa, di fuga. E quindi abbiamo proprio un problema anche evolutivo. Sì, sì, evolutivo, certo. La tecnologia ci costringe a vedere dei pericoli dove noi non pensavamo ci fossero. E dove non li percepiamo. Non li percepiamo. Le voglio fare ancora una domanda. Senta, ma l'assassino si è preoccupato di cancellare tutti i messaggi dalla memoria del suo smartphone. Ma spariscono per sempre oppure, cioè, è possibile cancellare? No, niente. No, no, no. La cancellazione semplice, quella che un, sì, utente può effettuare tramite l'interfaccia, in realtà non serve a niente, nulla, alcunché. Nel senso che nella memoria del dispositivo questi messaggi, diciamo, il comando che si dà al dispositivo quando si cancella qualcosa, sì, in realtà è dimenticati che di averlo, questo messaggio, ah, ma continua a esserci. Quindi non è più possibile cancellare definitivamente un messaggio? È estremamente complesso, anche per un, tecnicamente parlando, voglio, sì, dire, sì, di quello parlo. Cancellare completamente un messaggio digitale è difficile per due ragioni, perché sul singolo strumento, device, la cancellazione in realtà non è una cancellazione, come, sì, dicevamo. Il secondo motivo è che questi device sono continuamente connessi in rete e di conseguenza quello che facciamo viene immediatamente trasmesso anche altrove. Quindi una copia di quello che abbiamo fatto è anche da qualche altra parte. Quindi attenzione assoluta. Cosiddetto cloud, sì, sì, come spesso si chiama. 800 24 00 24, numero verde se avete delle storie da raccontare, 349 238 6666, l'SMS. Insomma, Mario, quello che ha detto alla fine il nostro esperto fa impressione, cioè tutto resta, si viene, sì, sorvegliati a distanza, però la verità è che uno quando cancella pensa di cancellare e invece non è così, no. Di questo non c'è consapevolezza, no, però fa parte delle tante cose che mancano all'alfabetizzazione digitale del paese. Facebook ha cambiato da poco le regole della privacy. Quanti di voi hanno controllato? E come ha cambiato? Ha cambiato da poco le regole sulla pubblicità che tu ricevi. In teoria, anzi anche in pratica, per migliorare il messaggio pubblicitario che tu ricevi, quindi più, diciamo, focalizzato sui tuoi interessi. In pratica significa che Facebook, appena tu rispondi ad un po' di domande eccetera, migliora la sua conoscenza di te. Ha migliorato l'analisi del tuo profilo, insomma. Esatto. quindi per, e quindi dei tuoi gusti, dei tuoi segreti, dei tuoi movimenti. Vabbè, allora qui c'è il siciliano che naturalmente c'ha qualcosa da insegnarci, perché dico, forse il ritorno al pizzino ci può garantire la privacy. È difficile andare oltre per avere privacy. È difficile perché nell'epoca della libertà totale siamo entrati, grazie alla libertà totale, che è quella di comunicare, di poter scrivere, di essere collegati, nel totalitarismo assoluto. Certo. Siamo controllati in ogni minima cosa, figurarsi anche nei pizzini. Non abbiamo la possibilità. Ah, neanche il pizzino è salvo? Ma se ricordi, c'è quella scena nel Padrino, sì, dove il Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando, non parlava manco al telefono, perché dice: anche se dici sto bene, qualcuno ritaglierà le parole e farà in modo di sbattere in galera chiunque. Qui siamo proprio Torquemada, datemi la frase di un uomo attraverso cui poterlo impiccare. Ormai è sufficiente già anche un sospiro, uno sguardo. Però ci sono alcune cose semplici che si possono fare, per evitare il rischio. Primo, cambiare la password continuamente, ogni tot di settimane, mesi, bisogna cambiarla. Non darla mai a nessuno, al tuo fidanzato, a nessuno. Cioè, quella cosa è un segreto. La password è un segreto. Sì, sì, sì. E poi così segreta che io non so neanche la mia. Io non me ne ricordo alcune, quindi figurati. Però, cioè, il non tema saprei della, come parlarmi. Il tema della sicurezza informatica legata ai profili individuali è il tema, come quasi una, cioè, violazione. Dare la proprio password non è un gesto d'amore, cominciamo. No, lì, no, ecco, perché non sai mai cosa può succedere dopo. Primo, vabbè, ti puoi lasciare, cioè, e poi, cioè, è la custodia di tutto, delle tue conversazioni. Non c'è niente di più prezioso, secondo me. Insomma, poi si vede, no, cosa succede. Infatti, allora sentiamo dal punto di vista psichiatrico diciamo qual è l'aspetto di questa, la lettura di questo fenomeno. Antonio Tundo, che è psichiatra, psicoterapeuta cognitivo, direttore dell'Istituto di Psicopatologia di Roma. Ecco, professore, abbiamo detto, l'omicidio di Sara porta al centro anche la tecnologia. siamo davanti a un thriller tecnologico oltre che psicologico? Direi che la tecnologia è solo uno strumento, il thriller segue il solito andamento, motivazioni diverse, solo che poi la tecnologia in qualche modo facilita, per esempio la presenza di queste app che aiutano a individuare una persona, certo, e poterla più facilmente seguire, ma sono strumenti, non sono cause. Ecco, ma il rapporto con la tecnologia ha cambiato la psicologia, eh? Direi non in particolare, perché la tecnologia viene poi usata da ciascuno di noi in base a come si è, a quello che c'è dentro di noi. Quindi di nuovo la tecnologia può essere una leva, un fattore facilitante, un fattore che sollecita alcune parti di noi, la tendenza alla compulsività, la tendenza anche alla dipendenza. Quindi è molto. Quindi la vedrei in questo senso. Ecco, ma dal suo punto di vista, professor Tundo, lo stalkeraggio è cambiato nell'epoca dello smartphone? Lo stalkeraggio di nuovo è cambiato non nella sostanza, un fenomeno antichissimo presente accompagna, certo, l'umanità. Quello che cambia e che è cambiato per fortuna è la visione sociale. Oggi alcuni atteggiamenti che chiamiamo di stalking non sono accettati, semplicemente sono segnalati dalla società come comportamenti inopportuni e anche puniti. Di fatto, di nuovo, è semplicemente diventato più facile mettere in atto lo stalking. Pensiamo alla possibilità di inviare 100-200 mail in una notte. Ecco, ma quello però cambia poi anche nel profondo le psicologie lentamente, perché certo tira fuori quello che siamo, però insomma lo determina anche in qualche modo. E lo amplifica. Lo amplifica talmente. Ecco, ma il fatto di essere sempre connessi, di sapere dove sta l'altro, può dare un senso anche di onnipotenza e quindi di controllo assoluto verso il partner che in altri tempi andava conquistato, diciamo, un rapporto di fiducia. Qui invece non c'è bisogno. Certamente, dire che la tecnologia però è utile, ci può mantenere in contatto anche se siamo in nazioni diverse, in città diverse. No, questa è la parte positiva, no, ovviamente. La parte positiva, se dentro di noi c'è una propensione negativa, allora la tecnologia ci facilita la messa in atto di comportamenti inopportuni e pericolosi. Ecco, ma infatti volevo sapere dal punto di vista dello psichiatra e dello psicoterapeuta, diciamo, delle pulsioni originarie magari nascoste possono esplodere anche grazie a questa possibilità o no? Possono esplodere più facilmente e possono avere dei riverberi, delle conseguenze molto più ampie. Prima l'esempio della possibilità di inviare mail o messaggini, in altri tempi tutto questo avrebbe creato meno pressione nella vittima. Certo. Un'altra cosa invece tutta la notte ricevere messaggi. Certo. Quindi è un potente fattore amplificante. Ecco, un'ultima cosa, la possibilità di sfuggire al controllo altrui, però diventa quasi impossibile, quindi per difendersi cosa bisogna fare dal punto di vista sempre dell'analisi di uno psichiatra? Sarebbe fondamentale fare prevenzione, sapere cosa fare quando siamo oggetto di un'azione di stalking, di pressione che non vogliamo subire e che ci fa star male. Riconoscere i segnali, cercare di bloccare subito questo comportamento, perché più va avanti peggio è. Bastano 2 settimane per far incattivire chi ci fa pressione. Ma i segnali quali sono? I segnali sono quelli di ricevere messaggi che non vogliamo ricevere, mettere uno stop e non essere ascoltati, avere così dei contatti per cercare scusa, perdono, eccetera. Ma queste sono tutte in genere illusioni, perché poi la persona in genere non cambia e quindi ci ritroviamo nella stessa condizione di prima. Quindi quando sentiamo che siamo sotto pressione da parte una persona che ci fa star male, non ci fa dormire, ci fa venire l'ansia e che non accetta tutto questo, mettiamo una rete di protezione. Ecco, abbiamo una telefonata, la regia me la passa, non c'è la telefonata, bene, allora tornando, sì, eccolo qua, Carmine da Caserta. Carmine, buongiorno. Dottore, buongiorno, e vorrei ringraziare ai vostri collaboratori che sono stupendi, la fine del mondo, educati e perfetti. Dottore, guardi, non sono d'accordo di quando gireremo ci i complimenti. Sì, grazie. Dica. Non sono d'accordo di quando ci si parla che la ragazza ammazzata dal fidanzato e le persone si girano dall'altro lato. Non è proprio completamente così. Io non sono d'accordo. Io sono umano, mi sarei fermato 50.000 volte se vedo un caso di genere. Allora incomincio a mettere la prima ipotesi. Io mi trovo a Roma, sono un napoletano che mi trovo a Roma. Sì. Mi fermo per vedere, quella, per chiamare la polizia. Qual è quella, sì, strada? Non la conosco. Alle 4 di mattina chi chiama per sapere quella strada? Mentre trovo quella strada, la ragazza verrà anche sepolta, in effetti, fino a che si come in tutto questo. Poi quindi... vai in polizia. Non è la disumanità delle persone. Sono altri problemi. Non so, lei, io non vorrei mettere la mia città in cattiva evidenza. Quando ci si ferma, a volte fanno dei finti incidenti, una gomma a terra. Sì, sì, ma infatti diciamo che il problema sulla sensibilità di chi si ferma dipende dalle condizioni e dal suo grado, un uomo, una donna, insomma, quell'ora, in quella strada. Il problema è che nessuno ha telefonato alla polizia, quindi forse quello lo poteva fare chiunque. Mm. Grazie. Ecco, però tornando al caso di Sara, dopo queste cose che abbiamo detto, a me sorprende una cosa, che il giudice abbia escluso la premeditazione, perché il racconto che viene fatto dai testimoni, dagli amici, insomma, c'erano state delle scene precedenti, eccetera. Cioè, abbiamo ancora Massimo da Genova. Massimo, buongiorno. Buongiorno, Massimo, buongiorno. Dica. Ecco, io volevo intervenire un attimo, sono un poliziotto, per un certo periodo mi sono occupato di questo problema della sicurezza, sì, delle, e senza entrare in attività istituzionali o spiegare che naturalmente, sì, possiamo intercettare i telefoni, esistono delle semplicissime applicazioni che si possono scaricare, certo, da internet, che permettono di controllare il telefono del coniuge, vedere addirittura dove si trova, nel senso fisicamente, cioè accendergli la telecamera e vedere, certo, cosa è. Infatti, avevo un amico che era molto geloso della moglie e se l'era installato nel suo cellulare. E come va il loro matrimonio adesso? È finito, naturalmente, perché quando lui perché quando lui, praticamente quando sua moglie stava parlando con lui, lui faceva scattare una foto alla telecamera del cellulare e vedeva la persona che era davanti alla moglie, quindi aveva una galleria di, diciamo, cioè, così, di ospiti, non era fortunato con la moglie, non è d'altronde, insomma, può succedere, però esistono anche cose molto più evolute che permettono un tracciamento GPS quasi preciso come quello può fare un servizio istituzionale, ed esistono anche dei sistemi per cui tu puoi automaticamente vedere tutti gli SMS che vengono mandati da un certo cellulare con anche il numero che li riceve, quindi insomma, siamo disperati, il mantenimento della propria password e del controllo del proprio cellulare è vitale, ecco, è vitale. Va bene, grazie. Ecco, dicevo, a proposito di questo, io dicevo, questa esclusione della premeditazione mi ha colpito. Mm. Voi no? Sì. Sì. Sì, a meno che non si creda che tutto debba essere affidato già nel delitto, nell'attuazione del delitto, al cosiddetto istinto, al raptus, sì, però era premeditato. Ma cosa ci faceva l'alcol? Girava, lui dice, per me. Insomma, comunque, mi sembra strano. Una cosa che colpisce. Sì. Vabbè, insomma, 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. X24. E allora, Pietrangelo, che ci fai ascoltare oggi? Eccola, arriva. Allora è diventata una città così piccola e vuota oggi Roma da poter allungare le gambe in metropolitana. E si stava seduti in balia di sogni, con la punta delle dita in punta di piedi, con gli occhi per lei che balla da sola. Ha chiamato Corto Maltese, ha voluto questo brano e ha voluto anche che tutti gli occhi siano per lei, con un messaggio: la porto con me con le farfalle del mattino. Mario, Ecco. Allora, qual è l'agenda della settimana? C'è un sacco di roba, Giovanni. Diciamo una cosa che non abbiamo detto prima sulle elezioni, per esempio sul caso di Bologna, dicevi, certo, che ritieni interessante. È un candidato che ha potenzialità ed è un candidato leghista. Ed è un candidato leghista. Cioè, quindi i ballottaggi, nel confronto interno alla destra, questo pesa. E i ballottaggi si annunciano, secondo me, molto più interessanti molto di quanto potevano essere, insomma. Vabbè, intanto andiamo sulla di musica. Beh, questo è un brano leggendario, sono gli America, You Can Do Magic. Sentiamoli ancora un po' per il piacere del passato. You know darn well, when you cast your spell, you get your way. Bravi, Allora, Giovanni, succedono un sacco di cose. Pietrangelo, sei pronto? Per esempio, domani c'è un discorso di Janet Yellen, che è presidente della Fed a Filadelfia. E vediamo un po' di capire dove va il denaro americano. Non ci sarà sicuramente, dopo i dati sull'occupazione, un rialzo dei tassi. Martedì, big day, grande giornata per la corsa alle presidenziali in campo democratico. In particolare si attende il voto in California. La sfida tra Hillary Clinton e Sanders è molto accesa, il distacco è bassissimo tra i due in California. La California, da un lato, potrebbe dare alla Clinton, in caso di vittoria, i delegati per poi prendere l'anno che le mancano per la nomination democratica, ma se dovesse vincere Sanders si allunga ulteriormente la corsa, il momento di incertezza della Clinton, che potrebbe, anzi, che sicuramente favorisce Trump, perché nei sondaggi Real Clear Politics sta 1,5% sopra la signora Clinton, cioè niente, e quindi la corsa alle presidenziali è molto aperta. Da segnalare che c'è un incontro a Washington molto importante domani tra il primo ministro indiano Modi e il presidente americano Obama. C'è il nucleare di mezzo, insomma l'India è un gigante. In Brasile si riunisce la banca centrale e sapete tutti in che condizioni è quel paese, altrettanto importante per la crescita. Escono i dati sulla produzione industriale in Germania domani, da tenere d'occhio. Mercoledì i dati sulla produzione industriale del Regno Unito, e ricordo che siamo a 2 settimane da un appuntamento importantissimo per l'Europa, che è appunto la Brexit, e soprattutto escono i dati sul commercio in Cina, da tenere d'occhio per la crescita globale. Vabbè, teniamo d'occhio tutto. Caro Giovanni, è dura, vedi che uno dice, ma bisogna, come si fanno le cose? Bisogna studiare. Studiare, questo sempre. Salamino! Come finirà comunque alle elezioni? Come finirà alle elezioni? Perché questa è la vera domanda. Però non i ballottaggi in Italia e neppure il referendum sulla riforma costituzionale scritta dalla soave, silente, solinga Maria Elena Boschi dalla periferia dell'impero, quale noi siamo, periferia dell'impero che sta lontano da noi a 10.000 chilometri. Ci si domanda quale sarà l'esito delle elezioni e punto, caro Mario, se questa benedetta Hillary Clinton, che comunque è una guerrafondaia, amica degli amici quelli lì, ricordiamolo ogni tanto che cosa ha combinato lei con i cosiddetti talebani. Beh, non solo loro. Che cosa ha combinato Ucraina, scatenando l'inferno. Allora, quasi quasi lei cede, mentre invece dall'altro lato Donald Trump, il parrucchino, il risvoltino, il miliardario coperto di femmine, rischia di vincere. E, caro Giovanni, è un già visto. Il ballottaggio qua nasce nel 1982, che è l'anno secondo dell'era dell'edonismo reganiano. Sì, cominciato qui, nell'80. Nell'80 nasce l'edonismo reganiano e nell'82 esce il qua qua, viene pubblicato il qua qua, e il ballottaggio qua qua, cosa entra in cosa, dice, cosa si impara praticamente da questo ballo del qua qua? Si impara innanzitutto che il ribellismo non paga più. Abbiamo qua che alla fine anche la lotta al capitalismo, l'antiimperialismo, in fondo hanno mostrato la corda. Si parte dunque dal ballo del qua qua, perché gli intellettuali liberal, cioè la sinistra al caviale, adesso vanno in smanie, ma è un già visto, e accadde già quando apparve sulla scena Ronald Reagan, che abbiamo sentito adesso commentato degnamente a suo tempo da Roberto D'Agostino. Bravissimo. E da Renzo Arbore. Oggi Reagan, qual era la tradizione? Si chiamava Quelli della Notte, il programma. Ma chi la fece? Chi lo fece? Degli amici, un gruppo di amici. Un grande successo della televisione italiana, sì, che ebbe a svelare questo arcano, che era quello dell'edonismo reganiano. Che aveva capito tutto, aveva capito. Cioè, l'avevo letto benissimo. Ed era decifrata benissimo la situazione. Allora, qual è la questione? Reagan adesso giganteggia nella memoria della storia americana, ma quando entrò in scena venne descritto in coerenza col pregiudizio antropologico dei cosiddetti liberal. E proprio quella sinistra al caviale disse di Reagan: attore di serie B, ignorante, inadatto a sedere al comando della superpotenza americana. Caracciolo ha ricordato anche una battuta di Reagan che è già stata condivisa da Trump: sulla mia sedia presidenziale sarà scritto qui ha dormito Ronald Reagan. Però c'è una grande differenza tra i due. Il Reagan di oggi, ovvero Trump, è l'uomo del no. Si fa carico infatti della frustrazione dell'uomo bianco, quello escluso dalle elite, l'epigono di un ceto medio sempre più povero. Il Trump di ieri invece, ovvero Reagan, aveva il sì di una stagione intera accanto a sé. L'edonismo reganiano, appunto, di cui parlava D'Agostino in quella trasmissione, la ricordiamo qual era, Giovanni, la trasmissione? Quelli della notte. Che era appunto il sì del dinamismo imprenditoriale. Ora, come finirà non si può sapere, ma una cosa si può dire: Trump è già meglio di Hillary Clinton, perché con Trump il mondo ancora una volta potrà cantare e ballare il... Questo è il ballo del qua qua e di Barbero, che sa fare solo qua qua qua, più qua qua qua. Mamma Barbero, papà, con le mani... Diciamoci la verità, Giovanni, la Clinton non è simpatica. No, a pochi. No, soprattutto non credo neanche a suo marito. Fa le guerre. Soprattutto è un danno proprio per il cosiddetto mondo che non è bianco, che è povero, che sta dormendo, che detto. Viene massacrato continuamente dalle strategie di questi democratici. Tu sai qual è il detto? Il detto è che i democratici cominciano le guerre, i repubblicani le finiscono. Poi succede anche il contrario, in realtà. In America tutti fanno la guerra, purtroppo. Appunto, perché quella è la ricchezza nazionale. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666, l'SMS pubblicità. X24. We were living in luxury, enjoying freedom, justice and equality. We wore silken robes and slippers of gold. We were the wealthiest and the wisest people untold. Now we are the poorest of the poor. Nobody wants us at their door. Oh my friends, it's easy to tell. White man heaven, black man hell. Cassius Clay che canta in inglese: vivevamo nella giustizia e nell'uguaglianza, oggi siamo i più poveri dei poveri. Per i bianchi c'è il paradiso, per i neri c'è solo l'inferno. Una filastrocca, un canto di protesta, quasi un rap. È la voce inedita del nero più famoso di tutti i tempi, appunto Cassius Clay, la leggenda del pugilato che dopo una clamorosa conversione diventa Muhammad Ali, The King. L'uomo e il campione, la politica e la religione, segreti e misteri nel racconto di un suo grande amico, Gianni Minà. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, c'è ancora una bolla? Sì. Bene, vabbè, su questa dolce suave voce, volevo solo dirvi che c'è ancora una gran voglia di andare a lavorare in banca. Certo, la banca è la Goldman Sachs, solo che licenziano anche però sono arrivati 250.000 applicazioni per i lavori estivi e Goldman Sachs è interessante, c'è ancora un grandissimo prestigio per un lavoro che invece in altri marchi del settore insomma è in difficoltà. Le ristrutturazioni italiane e non solo europee sono un esempio, quindi ma c'è un mito ancora che resiste, no? Dici, nel mondo della finanza ci sono alcuni marchi che ancora attraggono moltissimo. Ci sarebbero anche delle così degli aggiornamenti sull'Iraq, ma non li faccio, tanto no dai. Vabbè. Se abbiamo tempo, se me lo dai dopo, adesso vabbè. No, perché mischiare la cipolla No. Insomma, allora intanto col professor Roberto Bernabei commentiamo le notizie top di medicina apparse sulle riviste più importanti del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. BMJ, aprile 2016. Nicotina senza fumare, valutazione della sigaretta elettronica. Sapete che da qualche anno la sigaretta elettronica, che ha in genere varie sostanze, spesso la nicotina, al suo interno, viene utilizzata da molti per, diciamo, tra virgolette, smettere di fumare. Allora questo lavoro rifà un po' il punto su questa sigaretta elettronica per capire se vale la pena continuare a utilizzarla oppure c'ha qualche buco nero. Allora, gli autori ricordano alcuni punti fondamentali, che intanto il fumo è la più importante causa evitabile di morte e di problemi sanitari e l'utilizzo della sigaretta elettronica danneggia la salute, diciamo 5, quando il fumo la danneggia 100. E di fatto la sigaretta elettronica è la più popolare tra le varie forme di consumo di nicotina oltre il fumo, il cerotto, la gomma da masticare, eccetera. E di fatto concludono che la sigaretta elettronica è un mezzo importante per ridurre il danno da tabacco perché produce un danno veramente minimo e che quindi favoriscono e supportano la diffusione a livello addirittura di governi delle strategie di riduzione del danno da tabacco attraverso la sigaretta elettronica. Bene, per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ci fa sentire? Oggi una canzone per chi dice amore, noi insieme possiamo fare tutto e anche niente insieme. Stefano Lì, via Umberto. Facciamo niente insieme.